Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione, sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Non che io sia un giovincello, sono piuttosto attempato. Però la prima volta che vedo una signora che normalmente, secondo un luogo comune, si direbbe una signora âgée, che esprime un fascino, un'attrazione, un interesse che mi sembra propria di un'età molto meno matura, e la signora è probabilmente abbastanza più grande di me. Eppure questa donna ha un suo fascino particolare che esprime attraverso la curiosità degli occhi. Mi guarda come se mi dovesse dire qualcosa. Ma sì, in effetti qualcosa deve dirmi, perché io questa donna già l'ho incontrata, già mi ha raccontato qualcosa della sua vita, e io probabilmente, talmente attempato nella freschezza del mio cervello a non ricordarmelo, non l'ho capito subito e devo subito rimediare. Mi sono sposata giovane, naturalmente come si usava a quei tempi, 23 anni, ho avuto due figli, un matrimonio insomma sì, fatto di amore, senza, e dopodiché sono arrivate le corna che hanno cancellato tutto. Beh, arrivate, non è che sono arrivate da un momento all'altro, dopo quanto tempo che c'era l'amore? Dopo otto anni. La crisi del settimo anno era stata. Ecco, sono arrivate le corna comunque. Ma l'ha scoperte subito? No, non le ho scoperte subito, le ho scoperte dopo un po', comunque ormai le cose erano fatte. Ma come è avvenuto la scoperta? L'ho scoperto cercando, frugando nelle tasche, purtroppo, cosa che non mi piaceva fare, però a un certo punto ho provato e ho trovato le prove. E qual erano le prove in quel caso? In quel fattispecie era un bigliettino colmo d'amore verso quest'altra persona, per cui ok, mi sono arresa, perché davanti a tanto amore non si può fare altro. Beh, magari era un momento di infatuazione, non poteva negoziare un po', a vedere. Durava da tempo. Quanto tempo? Da tempo dura? Perché durava da qualche anno, io ero a casa con i miei bambini piccoli e lui se la spassava. Insomma, vabbè, era una storia parallela, non è che era proprio una storia parallela. Era bigamo praticamente. Sì, diciamo così. Quindi al che fatto scoperto il fatto, messo alle corde, mio marito ha deciso di andarsene e basta. Naturalmente erano i tempi che non c'erano telefoni cellulari, queste cose. No. Quindi o trovava il biglietto, niente, non c'era proprio. Esatto, però non mi piaceva frugare nelle tasche, molto sinceramente, però a un certo punto chissà la cosa mi è venuto. L'istinto femminile. Esatto, lei avrà avuto delle avvisaglie, però diciamo qualcosina che non andava, c'era. Si allontanava molto spesso da casa, con la scusa del lavoro, si allontanava da casa e io restavo con i bambini, erano piccoli. Ma perché allora stava in un'altra città questa donna? No, eravamo tutti a Milano e lui aveva possibilità di, col lavoro che faceva, di andarsene, insomma, praticamente. In realtà si infrattavano sempre a Milano, perché non è che andavano fuori assieme. Sì. No, avevano vicino in una piccola paesino di Milano, vicino a Milano. Ma quindi ha scoperto anche tutta la transumanza passo per passo. L'ho scoperta comunque. E come ha fatto a scoprirla? No, voglio sapere come ha fatto a scoprirla. L'ha confessato. L'ho scoperto, Prima di tutto l'ho fatto confessare e mi ha confessato questo suo grandissimo amore verso quest'altra persona. E quindi cosa dovevo fare? Ma era impegnata anche l'altra donna? No, era libera, aveva anche lei due figli, aveva anche lei una realtà. Però una rovina libera. Famiglia, diciamo. Ma neanche tanto, perché non è stata neanche colpa di lei. Beh, se c'è l'amore, di fronte all'amore però non si discute, si erano innamorati, non era una storia erano così. Si erano innamorati, infatti, ma io mi sono ho fatto un passo indietro, perché davanti all'amore io mi sposto. Ma nemmeno ha posto l'alternativa, dice proviamo a vedere se ricostruiamo il rapporto. Proviamo, sì. Ma lui era pentito di questa cosa oppure era... No, assolutamente no, perché il suo grande amore era quello e io ho capito che non avrei avuto... E perché non gliel'ha detto prima? Viveva meglio, no? Lo so, è quello lì, e questo non lo saprò mai. Beh, c'erano i figli di mezzo, dirmi. Magari pensava che... Poteva dirmelo, potevamo trovare un compromesso, qual è il compromesso? Mica potevate fare una famiglia a tre, il compromesso o una o l'altra se ne doveva andare... Sì, però un conto è sapere quello che stai vivendo e un conto credere cose che invece non sono, insomma. Cioè la chiarezza mi pare che sia alla base di tutti i rapporti migliori. Vabbè. Chiarezza, mi dice guarda, io mi sono innamorato, vediamo cosa possiamo fare, se non possiamo fare altro ci dividiamo. Ma è finita bene o è finita male? Vi siete lasciati bene o male? Con un divorzio. Beh, diciamo che insomma gli anni sono stati abbastanza burrascosi dopo, perché io mi sono trovata da sola e insomma non è stato semplicissimo, comunque ce l'ho fatta, me la sono cavata con l'aiuto di mia mamma, abbiamo cambiato città. E qui entriamo nella seconda parte di vita. Vabbè, quindi lei si trova, a che età più o meno, si trovata sola, senza... 40 anni. Vabbè, era una ragazza, era giovanissima ancora. Ero abbastanza giovane, 40 anni, e mi sentivo veramente molto, molto sola. Beh, poteva rifarsi quindi, una vita, era una ragazza, trovava un altro uomo anche lei, no? Appunto, veniamo nella seconda parte. Lei aspetta, andiamo per gradi. Non aveva mai avuto prima la tentazione, lei, in questi momenti di matrimonio non felice, di guardarsi intorno, o era proprio dedita al marito e basta? No, assolutamente, io mi sono anche guardata intorno, ho cercato di vedere, però sa, con due bambini piccoli... Ma allora era reciproco, lui le mette alle corde, ma anche lei si stava organizzando. Prima. No, non mi sono organizzata, mi sono un attimo guardata in giro, ma poi non... Ma quando si guarda in giro vuol dire che già c'è l'intenzione, è solo questione di trovare l'occasione. No, non sono un moralista, mica la rimprovero, è per avere un quadro esatto. Ma suo marito... Ero sola. Diciamo che è meglio prima che rimanesse sola, nel momento... diciamo in cui il marito consumava l'adulterio, lei era una moglie fedelissima, non ci pensava. Allora senz'altro. È quello chiedevo io. No, è quello chiedevo io. Non era reciproca la voglia di tradirsi, ecco, era solo da parte del marito. No, dice no, però non è molto convinta. Ero completamente sempre sola con i miei bambini, cercavo di crescere loro. E quindi di necessità faceva virtù, non c'aveva manco l'alternativa. Quello è. Cioè l'aveva rinchiusa in casa con due figli, cioè almeno sta tranquilla, e lui spaziava. Lui spaziava, lui faceva quello che allora, voleva. Siamo al punto in cui lei rimane sola, si libera di questo marito infedele, e cosa fa da sola? Allora, io insieme a mia mamma, che lavoravamo sempre insieme, abbiamo deciso di cambiare città. Abbiamo cambiato città tanto per cambiare vita proprio, e siamo venute a Parma. Con i figli pure? Sì, con i miei bambini. Quindi la famiglia era composta di madre, figlia abbandonata, madre e nonna. E stavamo molto bene, a dire la verità. Per carità, abbiamo aperto un negozio qua a Parma e abbiamo cominciato. Cosa facevate? Che attività avevate? Parrucchiere. Ah, quindi era una parrucchiere. Anche sua madre insieme lavoravate? Sì, vabbè, insieme. Avevate una bella vita, tutto sommato. Lavoravate? Molto bene. State felici? Molto bene. Le mancava soltanto l'amore a quel punto? Mi mancava molto, in quegli anni, 40 anni. Era giovane veramente... ancora, figuriamoci, nel pieno dell'età vitalità. Vitale. E come ha fatto? Non ha cercato nulla? Non è facile perché sa, non avendo molte occasioni di uscite, di svaghi, eccetera, però avevo una cliente che mi parlava sempre di un figlio, di suo figlio che era solo, che era scapolo, che era... Insomma, le sarebbe piaciuto vederlo insieme a qualcun altro. E quanti anni aveva questo scapolone? Aveva 4 anni più di me. Ah beh, quindi è proprio un figlione di mamma, a 44 anni ancora stava con la mamma. Perfetto, no, abitava da solo. Sì, però la mamma ancora si preoccupava di trovargli una compagna, era già una situazione... insomma, sì, me ne parlava così, ma bonariamente. Beh, però, scusi, a 44 anni uno o è separato, o è accoppiato, o fa il puttaniere, o non gli piacciono le donne, perché non c'è una quarta via. Era un po' misantropo, era un po' solitario, era una persona un po' schiva, era una persona un po' complicata. Era un po' strano, ecco. Ma sì. Comunque mi è sorta curiosità di conoscerlo e quindi attraverso escamotage vari, telefonate. Beh, escamotage, c'era la mamma che faceva da ruffiana che ci voleva, la mamma dice no, esci con lei, la signora. Ma lei non sapeva niente. Ah, non gli aveva proposto la signora? Non lo proponeva, come così, le raccontava soltanto. Raccontava di questo figlio che era sempre da solo e lei avrebbe avuto piacere che si trovasse qualcuno per condividere ma questo è importante, glielo diceva con l'idea, dice dacci un'occhiata a te se ti interessa? No. Chiacchiere da parrucchiera, raccontavi il più o il meno. Chiacchiere da parrucchiere, esattamente. Chiacchiere da parrucchiere, come si usava una volta. My tired feet brought me to that red boat, so still in foreign waters. And although I've never been here, I know that here I've swam before. Avvertono i signori passeggeri che il treno effettuerà una breve sosta per le informazioni sul traffico. Restate in ascolto. Un luogo comune è un'opinione o un concetto la cui diffusione... Un po' di... meno impostato, un po' di emozione. Ma sì, un po' di brio, dai. La cui diffusione, ricorrenza o familiarità... che cos'è? Vabbè, non sei credibile, cos'è il Carnevale di Rio? Ne determinano l'ovvietà o l'immediata riconoscibilità. Senti, teatro qua, tutto profondo. No. Basta questa cosa che il teatro è noioso, eh. È un luogo comune. In letteratura è detto topos e indica il ricorrere di un tema in un autore o in un genere letterario o artistico. Vabbè, non t'arrabbiare. Off topic. Fuori dai luoghi comuni. Il sabato alle 22.30 e la domenica alle 14 su Radio 24. Il treno va. I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. E come ha fatto a rintracciarlo e a calappiarlo? Ah, ma semplicissimo, sulla guida del telefono, perché allora non c'erano ancora cellulari, eccetera. Eh sì, ma non è che uno può chiamare in una città piccola così una persona e dice ciao, tua mamma mi ha detto che sei solo, così ha fatto? No, ho chiamato una sera e ho fatto finta di essermi sbagliata. Eh sì, guarda caso il figlio di una cliente, uno si sbaglia. Cercavo un nome qualsiasi, no scusi, è sbagliato. Dopodiché, dopo due o tre giorni, ho riprovato ancora. Ho cercato di intavolare un discorso. Sempre dicendo che si era sbagliata. Mi sono sbagliata, mi scusi tanto. No, non si preoccupi. Ma lui era gentile oppure era molto buono? Gentilissimo. Però non era molto allora, scafato, non è che prendeva la palla al balzo, dice sì, si è sbagliata, è il caso, ci ha unito, vediamo, gli dare una mano al destino. Quello che dicono gli uomini un po' provoloni, no, questo non l'ha fatto. No, lui era convinto che io mi fossi sbagliata. Dopodiché, insomma, abbiamo cominciato una relazione telefonica. Come una chat, tanto, solo al telefono, ecco. Esatto, io ho detto guarda, se non ti dispiace qualche volta ti chiamo, visto che io sono da sola. È più esplicito di così, cioè uno se non capisce adesso proprio. No, ma infatti poi abbiamo creato l'occasione per incontrarci. Ma per quanti mesi vi siete telefonati prima di vedere? Ah, un mese e mezzo di telefonate. Con quale frequenza? Con quale frequenza? Una sera sì, una sera no, ogni tanto lo chiamavo. Poi quando mi sono accorta che lui le aspettava le telefonate. Eh beh, ci credo, scusi, aspettavo. Lui le aspettava, anche perché avevamo intavolato proprio di... Ma lui non veniva mai in mente di chiamare lui? No, perché non gli ho dato il mio numero di telefono. Ah già, non si vedeva, non c'erano i cellulari, è vero? Allora no, non si poteva sapere. No, chiamavo io. È una voce che veniva dal nulla, non si sapeva, è vero. Sono arrivata dal nulla, è così. Ma io un po' conoscevo la sua vita, quindi sapevo un po' dove andare a parare, sapevo che era un pescatore, sapevo che gli piaceva viaggiare, quindi sapevo dove toccare i punti. E non aveva fidanzate o relazioni, questo era sicuro? No, era libero, liberissimo. Beh, comunque una sera poi abbiamo deciso di incontrarci e ci siamo incontrati, ci siamo che piaciuti. Com'era, un bel ragazzo? Beh, un signore di una certa età. Beh, 44 anni, oggi è un ragazzo. No, lo so, oggi, ma... Beh, negli anni 80, io ero vivo negli anni 80, cioè mi producevo già... No, andiamo negli anni 90. Negli anni 90. Ieri, un uomo di 44 anni, negli anni 90 è un ragazzino. Beh, comunque sono una persona un po' posata, un po'... Era molto serio, diciamo. Sì, era molto serio. Era vecchieggiante perché stava chiuso dentro casa, non vedeva donne, non faceva niente, chiaro. Sì, era misantropo proprio, una persona molto solitaria. Ma anche misogino, perché non mi pare ci fossero tante donne intorno, no? No. Comunque abbiamo cominciato. Ma non era un rischio frequentare una persona che tiene lontane le donne? Uno si dice c'è un motivo, se le tiene lontane si dice che... le considera poco, non gli piacciono, non ci sa fare. Io ho provato a tastare un po' tutti i terreni, visto che la cosa poteva andare bene, e abbiamo cominciato a frequentarci, abbiamo cominciato ad uscire insieme. Ma uscire significa andare al ristorante, al cinema? Sì, il ristorante, sì, era un perfettissimo assaggiatore di vini, era veramente... Una persona piacevole. Benissimo, molto piacevole. Ma era elegante, piacevole anche fisicamente oppure? Elegante, alto, slanciato. Ma come mai era solo? Lei era un uomo così, con la fame che c'è di mariti in giro, atavica. Possibile che nessuno avesse tentato di sposarsi o di metterci insieme? Non lo so, questo fa parte della sua vita, io non lo so, lui non avrà mai trovato forse nessuno che potesse condividere. E quindi sempre queste grandi chiacchiere vi facevate così, del più e del meno? Siamo usciti per molto tempo, poi abbiamo cominciato a fare i viaggi, ecco, questo è il punto, perché io con lui ho visto il mondo. Perché abbiamo fatto stavate già insieme però a quel punto, eravate già... Sì, non mi ha detto il momento clou, però quando sei passati dall'assaggio del vino all'assaggio, diciamo, della caciotta? Cioè, quando ci sei arrivati? Sì, sarà passato 5 mesi. A 5 mesi da gentiluomo si è comportato. Ma sì, insomma così. Signora, sta parlando degli anni 90 come se fossero gli anni 50. Erano anni 90. Anni recenti in cui un uomo che usciva 2 volte con la donna poi alla fine stavano insieme praticamente, sennò che usciva. Ma no, dai, non è così. No, non fa parte del mio mondo questo. Ah, lei è molto riservata, lei? Ci vuole un po' di tempo. Però è stato paziente. Con un altro dice: senti, alla terza uscitina e passeggiata, le cose sono due. O arriviamo a qualcosa, se no ciao. Invece lui è stato paziente. No, ma dai, non bisogna mica essere neanche sempre satanati. Ma no, satanati, vabbè, ma uno che ci lascia fare con una donna dopo 3 volte. Vabbè, ma gli suscitavo anche forse qualche interesse, però bisogna aspettare il momento giusto, no? E com'è scattato il momento giusto? Il momento giusto, magari alla fine, un po' di vino rosso un po' forte, magari sai, ti dà quella carica. Ah, l'ha ubriacato e l'ha fatto su. Si lascia andare un attimo e lì è fatta. Ma dove, al ristorante? È successo? No, beh, no, voglio sapere a questo punto. No, l'uscita dal ristorante dopo una bella bottiglia di vino rosso. L'ha portata a casa sua, finalmente. Ci viene a casa sua, siamo andati a casa a vedere la sua collezione di farfalle. Cioè, lui aveva un bellissimo appartamentino piccolino. E non c'era mai entrata lei prima in quella casa? No, non c'era mai entrata. È un modo di fare che a me piace molto, perché è un modo di altri tempi, è sproporzionato. Negli anni 90 nessuno si comporta più così, a meno che uno è proprio un gentiluomo di altri tempi. L'ha fatta rosolare ben bene a fuoco lento. Probabilmente è stato bello per lui piuttosto che azzardare, certo. E avere un rifiuto, no? Perché lei l'avrebbe rifiutato. Ma è stato bellissimo, è stata una bella cosa, una bella storia. L'unica cosa. Scatta lì il problema di dirlo alla mamma. Lui l'ha detto alla mamma? Dopo gliel'ha detto, sì, guarda che sto uscendo con una signora. Che è la tua parrucchiera. Curiosissima, gli è andato, sa come fanno le mamme, ma dimmi chi è, è la tua parrucchiera. Allora rimasti proprio. E la signora poi si è rivolta a lei. E cosa le ha detto la signora? Come ti permetti? Dopo è tornata. No, eravamo anche un po' abbastanza amici. Non se l'è presa, diciamo, non era d'accordo. No, anzi, era contenta che suo figlio finalmente avesse trovato una persona. Ha fatto il grande salto, dice, finalmente ci vuole posto. Sì, ma sì. È un uomo che aveva avuto molte donne, oppure era sempre stato riservato? Che impressione ha avuto? No, dunque lui aveva vissuto molto all'estero, aveva fatto parecchi anni all'estero, era stato in Brasile, era stato in Inghilterra, era un uomo abbastanza vissuto, per dire. Quindi non era un ingenuo da svezzare, no. Ecco. No, era una persona con un ottimo lavoro, con una persona ben messa. Però non vi siete sposati, mi sembra di capire. Perbacco, sì, eh. Ah, vi siete sposati? E non mi dice. Ma dopo. Allora dopo abbiamo cominciato a fare tutti questi meravigliosi viaggi. Ma nel frattempo le povere creature che fine hanno fatto, i figli? No, erano con mia mamma, eh. Erano cresciuti, fra l'altro. Sì, erano cresciuti, poi stavano con mia mamma e io ero sempre a casa mia, andavamo via 15-20 giorni per le vacanze estive, appunto nei viaggi per il mondo, però io lavoravo sempre, ero sempre presente per i miei figli, io ci mancherebbe, no. No, quindi lei ha cominciato a vivere però praticamente dopo i 40 anni, quando è cominciata questa storia. Sì. È stata una bellissima esperienza questa, perché proprio tutti questi viaggi meravigliosi di cui serbo, ricordi bellissimi, proprio è vero che i viaggi ti lasciano dentro qualcosa. Beh, poi quando si viaggia da innamorati sembra tutto più bello, uno lo fa più volentieri. Sì, è stato molto bello. E comunque nel 96 ci siamo sposati. Quindi quanto è durato il fidanzamento così? 5-6 anni? Dal 90 al 96. 5-6 anni di fidanzamento. Era anche giusto. Ci siamo sposati. Mantenevate le vostre libertà e vi volevate bene. Però, ognuno viveva sempre a casa sua. Beh, questo è saggissimo, è una saggia soluzione. Sì, saggia soluzione, perfetto. Siamo stati benissimo, perché dal 96 poi ci siamo messi insieme, vuol dire convivere. Lui ha venduto la sua casetta, abbiamo comprato un'altra casa più grande nel 2002. Quindi altri 8 anni di matrimonio praticamente. Sì, 8 anni di matrimonio così, ognuno a casa sua, che si andava molto bene. Sei Dopo anni. Due anni di convivenza Basta, io non ce l'ho fatta più, non... Gli sembra di ritornare all'incubo di una di vent'anni prima, cioè praticamente. Sì, basta, non potevo più perché era molto chiuso in se stesso, forse stava invecchiando, forse un po' anche lui. No, è che si era molto chiuso. Il fascino molto... del mistero, dell'uomo enigmatico perdura finché l'uomo vive a casa sua e lo vede ogni tanto. Benissimo, questa è un'ottima. Quando ce l'ha dentro casa tutto il giorno ed è uno che sta zitto, che non alza un piede, benissimo. Non alza niente, diventa fastidioso. Finisce la poesia. Allora, finisce la poesia assolutamente. La convivenza mi ha ucciso proprio tutto questo alone molto bello che si era creato. Ma chissà perché poi la gente va a vivere. Stavate tanto bene, potrete magari vivervi tutta la vita quest'amore. L'avete fatto infradiciare in una sorta di imitazione del matrimonio passato. L'aveva già visto. Col senno di poi. You are a splendid butterfly. It is your wings that make you beautiful. And I could make you fly away. But I could never make you stay. Said you were in love with me. Both of us know that that's impossible. And I could make you rue the day. But I could never make you stay. Not for all the tea in China. Not if I could sing like a bird. Not for all North Carolina. For all my living words, not if I could write for you the sweetest song you ever heard. It doesn't matter what I do. Not for all my living words. Now that you've made me want to die, you tell me that you're unboyfriendable, and I could make you pay and pay, but I could never make you stay. Not for all the tea in China, not if I could sing like a bird, not for all North Carolina. For all my little words, not if I could write for you the sweetest song you ever heard. It doesn't matter what I do. Not for all my little words. It doesn't matter what I do. Not for all my little Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco. Il treno va. Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio. Il tracollo quando è cominciato? 2 anni ha resistito. Ah, 2 anni. Dopo 2 anni io non ho. Ma il segnale che non andava più quando era dentro casa, quando l'ha avuto? No, le dico subito, lui sarebbe andato in pensione alla fine dell'anno, era il 2002, lui sarebbe andato in pensione. Quindi erano passati 20 anni, vi siete conosciuti per 20 anni, vi siete frequentati. Una storia lunga. No, neanche 20 anni, dal 1990. Al 2002, 12 anni. 12 anni, 12 anni. Mm. In prossimità della pensione io mi sono sentita braccata, perché l'idea di averlo a casa tutto il giorno... Lei continuava a lavorare però? Io continuavo a lavorare, certo. Sì. Ma l'idea di averlo a casa tutto il giorno, di doverlo veramente... Ma perché non aveva, diciamo, degli interessi a parte il lavoro? non faceva nulla, no, in casa? No, non aveva più niente, non andava più a pescare, non aveva più amicizie. Mamma mia, come fa una persona sarebbe stato lì e mi avrebbe costretto magari a fare viaggi in Europa, perché ormai non si andava più per il mondo, si andava in Europa, trascurando poi magari tutte le mie le cose che dovevo fare, trascurando il lavoro, trascurando i figli, così. Insomma, mi diventava una vita un po'. Quindi era molto centrato su se stesso e basta, sui suoi bisogni. Esatto, quindi avrebbe voluto che anch'io seguissi. Però non l'ha tradita questo, almeno, no? No, assolutamente no. Però sai, però uno deve decidere, non è che può avere botte piena e marito ubriaco. No, certo. Se vuole l'uomo tranquillo, posato, affidabile, come quel romanzo di Giorgio Amado, I due mariti di Donna Flor, che uno era un puttaniere, sì. Che terribile, che quando è morto si è sposata con uno tipo questo suo marito, che però si era metodico, ma dopo alla fine è diventato noiosissimo. Lei alla fine si ripiglia tutti e due, perché il giusto mezzo è l'uomo ideale, che è un po' uno e un po' l'altro. E come gliel'ha detto? Però, guarda, è finita. Come gliel'ha detto? L'ha capito da sola? No, basta. Io ho cominciato a piangere, a essere inconsolabile. A un certo punto ho detto: guarda, mi dispiace, però io vado via. La casa. Ah, quindi gli ha lasciato anche la sua metà di casa? Sì, lascio pure tutto quanto, io torno da casa mia con i miei figli, mia mamma. Ma quanto le è costato? Ci ha rimesso un bel po' in questa operazione? No, non ho rimesso, perché lui mi ha comunque ripagato. Con una persona corretta, però è una persona corretta, sarà noioso, ma noiosone, però è una persona corretta. Io non ho nulla da dire di male di questa persona. Se no che alla fine sei diventato un pantofolaio e non lo interessava più. Sì. Non andava più bene per me, non ce la facevo più, e è andata bene così, perché poi ci siamo lasciati e basta, poi non l'ho più sentito. Ma eravate sposati o eravate una coppia di fatto? Sposati. Quindi vi siete dovuti anche divorziare poi alla fine, separare? Divorziare, si è preso lui l'onere di tutte le spese. Ma però è un gentiluomo vero, un vero gentiluomo. Infatti, rispetto, poverino, alla fine. Ma infatti io sarei molto lieta di. Ha fatto il passo più. Sì, ma ha fatto il passo più lungo della gamba. Lui pensava che una donna te la puoi tenere per sempre se la affascina all'inizio. Che donne vogliono sempre continuamente. Che qualcuno ridia combustibile al fuoco della passione. Uno dice: guarda, questa figura vive solo per me. La donna vive solo per te finché tu ogni giorno la sorprendi, e quello aveva smesso di sorprenderla. Che essere una brava persona non basta. Lo so. Sì, era stato molto bello, comunque ho sempre un bellissimo ricordo, perché ho visto. Ma scusi, sta nella sua città quest'uomo? Sì, sta nella mia città. Non vi incontrate mai? Non è che è una città enorme? No, non l'ho mai visto. No. Sta chiuso dentro casa, perché diciamo alla fine gira e ti rigira, uno lo incontra, una città di provincia, non è che mica è una metropoli. Ma ognuno poi ha preso la sua strada, non so che cosa. Si è messo con un'altra donna? Lo sa, dai. Sì. Sai tutto. Sì, no, perché io sono rimasta in contatto con sua sorella. E l'altra donna, che tipo di donna è, per capire così? È una donna di colore. Ma che è una badante, si è preso praticamente. Una badante, bravissimo. Sì. Si è preso una badante, non deve pagarla perché se l'è sposata, ecco. Ma va bene così, ma se lui è contento, io sono felice per lui. Io so che mi ha dato tanto. Evidentemente era nella fase che ormai non aveva più bisogno di una donna, bisogno di una donna che si occupasse di lui. E lei evidentemente non gli andava. Questa signora, in cambio, io non voglio dire che non sarà un grande amore, figuriamoci, sarebbe un pregiudizio stupido dirlo. Però mi viene da pensare, è più facile che abbia bisogno di una donna che si occupi di lui senza chiedere in cambio altro che il fatto di stare a casa. Certo. Ognuno poi si abbada un po' anche al suo interesse. Però giustamente, interesse. Così, anche questa signora darà a lui qualcosa, perché non credo che sia poi piacevole stare con un tristone noioso dentro casa tutto il giorno a limargli le unghie. Alla fine. Non lo so, questo io non lo posso sapere. Vabbè, fa il suo lavoro, giustamente, in cambio avrà il suo tornaconto. Il suo tornaconto, magari farà fare dei bei viaggi anche a lei, magari andranno fuori a cena, magari. Sì, no, perché è una persona interessante da quel punto di vista. È molto più giovane questa signora? Sì, molto più giovane. Molto, vero? Sì, penso che sia, abbia un po' la metà dei suoi anni. Lui ne ha 74-75. Elena ha una trentina. Lei ne avrà una quarantina. Ma è chiaramente una storia d'amore, che discorso, è logico. Sì, ma per Bacco, ma sì, io sono sempre per l'amore. Chi lo mette? Non... Certo, e chi lo mette in dubbio? No, per Bacco, io so che sto bene senza, perché io adesso sto molto bene. Ma quindi lei ha avuto due uomini in tutta la vita, praticamente? Due matrimoni, sì, due divorzi e adesso un ballerino e basta, va bene così. Adesso è un ballerino? Sì. E lascia la parte più succosa in fondo, è il nuovo amore. Succosa? No, non parliamo di amore, questo è semplicemente il mio ballerino di fiducia, con lui ballo molto bene, mi diverto. Ah, quindi è un ragazzo anche lui oppure? No, è un signore attempato, vedovo. Però lui sta a casa sua. Si è preso un bravo vedovo, si è preso adesso. Un bel vedovo che non ha nulla. Che è la cosa migliore, il vedovo, diciamo, su piazza, averceli vedovi. Infatti è anche ambito. Sì, ma lo sa perché, poi non devo insegnarglielo io perché la sa molto più lunga di me. Il vedovo non è come il separato, il divorziato, sempre il fantasma di un ex che può uscire da un momento all'altro. C'è il fantasma della moglie, che è bella che è morta, più di tanto non può rappresentare un problema, no? No, ormai è un lontano ricordo. Nemmeno se la ricorda più, non è come Verdone che c'ha sempre davanti, capito, furio, la moglie scomparsa che la imponeva. Non gliene parla mai della moglie morta, no? No, assolutamente, ormai è morta da 10 anni, ormai. Lui si è rifatto una vita, lui adora ballare. Ma come vi siete conosciuti con questo, in balera? In balera? Sì, e non mi ha detto che ballava lei? Allora, dopo tutte queste situazioni, dopo che sono uscita dal secondo matrimonio, ho cominciato a ballare. È una delle alternative andata... quando finisce un amore, le donne vanno, si iscrivono a una sala. Quello è sempre così. E sono andata a finire in questa balera, sono diventata anche volontaria. Ma cosa si balla lì? Tango? Questo... Ballo liscio, ballo liscio. Sì, ho provato anche il latinoamericano, però bisogna essere giovani, bisogna avere È un po' atletico. È bello vedere il corpo giovane, il corpo da anziani. Anziani, insomma. Dico anziani, però sono 70 anni, voglio dire. Non sei più mica... il corpo cambia, muta. Non ci posso pensare, certo, sì, anch'io ci sto arrivando, quindi... Sono meravigliosi, arrivarci è bello. È sempre meglio che morire, che discorsi. E quindi ho scoperto il ballo, sono andata a scuola di ballo, ho imparato un pochino a ballare. E come è avvenuto, diciamo... l'acchiappo con questo signore era il suo cavaliere preferito quando ballava? Sono stata parecchi anni da sola in balera, poi ho visto questa persona che poteva essere una persona interessante, in quanto vedevo che ballava molto bene. Allora sa le donne buttano l'occhiata e poi vedono, insomma, se hanno catturato o meno. E l'ha catturato. È venuto ad invitarmi e insomma, dopo da lì abbiamo cominciato a ballare insieme. Ed è stato bello, perché è stato veramente bello ballare bene insieme a lui. Ma sempre nello stesso posto o andate anche in trasferta? No, quasi sempre nello stesso posto, perché appunto io faccio volontariato lì dentro anche, quindi sono... Cioè ogni tanto schiatta qualche ballerino e lei lo soccorre, questo è il volontariato? No, non schiatta nessuno. Che ne so, che va a fare l'involontario? Io faccio il bar, faccio la barista. Ah, no, la barista. Ma un centro anziani, mese. Sì, un centro anziani, certo. Pensavo anche un luogo dove si lavora. Un centro anziani bellissimo, dove la gente veramente si diverte tanto. Ed è bellissimo vedere queste persone divertirsi. Insomma, chi ha la fortuna di saper ballare, di sentire la musica, è la cosa più bella. Uno fa esercizio fisico, uno ha contatti con altre persone, perché poi ci si abbraccia. Chi abbraccia più una persona a 70 anni se non, diciamo, la persona a cui sta assieme? Quindi ci sta sempre abbracciati, è bello, no? È bello, è un modo anche quello per sentirsi vivi e vitali, ancora utili, ancora presenti al mondo. Ma con questo signore, diciamo, è una storia d'amore, si può chiamare come tale, o è semplicemente un compagno di ballo? No, per me non è una storia d'amore, molto onestamente no. Ma lui si è fatto avanti anche, diciamo, con parole d'amore? Sì, volendo, innamorato. Sì. Volendo. Ma insomma, mi vorrà bene, ma anch'io gli voglio bene. We live together in a photograph of time. And I look into your eyes. And the seas open up to me. Well, I tell you I love you, and I always will. And I know you can't tell me. I know but you can't tell me. So I'm left to pick up the hints, the little symbols of your devotion. So I'm left to pick up the hints, the little symbols of your devotion. And I feel your fears, and I know it's out of love. And I feel the wind, and I know it's out of love. Collect upon my body the memories of your devotion. And I accept and I collect upon my body the memories of your devotion. Si avvertono i signori passeggeri che il treno effettuerà una breve sosta per le informazioni sul traffico. Restate in ascolto. Il treno va. Si informano i signori passeggeri che è vietato sostare nelle toilette durante le fermate intermedie del treno. Ma siete una coppia, senza entrare nei particolari, siete una coppia oppure amici che ballano? Siamo una coppia di ballo, sì, una coppia di ballo. Poi se c'è da andare a mangiare una pizza insieme ci si va, tranquillamente. Anzi, durante le feste estive, dove qua in Emilia si balla parecchio, sabato e domenica di sera, si ballava perlomeno, adesso si ballerà ancora, ma ci si mangia, si balla, si sta in compagnia, insomma è molto bello. Ecco, ci beiamo di queste cose. Beh, mi sembra una bellissima storia, sinceramente. Sì, la mia vita è bella. Però questo signore chiede la cosa che non dovrebbe mai accadere, cioè di andare a vivere assieme, che per lei è stata la morte di ogni storia. No, non ve lo chiedo. No, perché anche lui ha due figlie, dei nipoti, no, anche lui ha la sua vita, no. Quindi se uno può tirare fuori una lezione da questo racconto breve della sua vita, è che lei non deve andare a convivere con gli uomini, deve tenersi, ma non c'è da andare a vivere assieme, quello è il problema. No. È vero, infatti, ma adesso l'ho imparato, a suon di... Adesso non può più sbagliare. Marco. 70 anni direi che va bene. Ma 70 così. Anni, oggi 70 anni non è che sia un'età decrepita, Ma assolutamente, ce ma io non mi sento affatto decrepita. E il signore, il ballerino, quanto ha? Ne ha parecchi più di me, ne ha 9 più di me. 79, vabbè, ma se riesce ancora a ballare vuol dire che si tiene su anche fisicamente, è un bell'uomo. Ma gli è stato molto d'aiuto anche la mia conoscenza, perché gli ha dato una carica. Lo vedo che è proprio carico, vitale. Ma sta scherzando, piace. 79 anni, aveva una donna che ti abbraccia, che ti cerca, ma è cosa fantastica. Sì, dai, gli ha salvato la vita praticamente. Io lo augurerei a tutti, veramente, invece di stare a piangersi addosso. Sì, però ci vuole, sai, lei ha avuto sempre molta. Sempre stata molto sfrontata, ha usato. Gente aspetta sempre che venga, ti bussi alla porta e entri il principe azzurro. Lei se l'è andato a cercare, si è mossa. Il primo l'ha tampinato per mesi, il secondo si è iscritto all'Accademia di Ballo, al corpo di ballo, alla balera, ha fatto tutto. Non è che lo fanno tutti. Mi sono buttata nella mischia e va bene, sempre con rispetto. Ma lui ha mai dei momenti di gelosia nei suoi confronti? Ma forse anche ce li avrà, anche perché io se ballo anche con qualcun altro, così, però lo sa benissimo che i nostri rapporti sono quelli, sa che io amo ballare con lui perché con lui mi trovo bene, quindi non lo cambierei mai con nessun. Però lo fa soffrire perché... quando la vede abbracciata con un altro, nel turbinio della lussuria, nella balera, ci rimarrà male, poverino, no? No, riduciamo un attimo le cose in un'abbracciata proprio. No, beh, lì balla, siamo lì. Siamo tutti amici, siamo tutti conoscenti. Ma un po' ci gioca lei per farlo soffrire così oppure no? No, non mi piace. Non fa questi giochi tipicamente femminili? No, non mi piace far soffrire nessuno, anzi, dopo gli faccio dei bei sorrisi, guarda, non preoccuparti mai che io ballo volentieri solo con te. Beh, lo fa contento con poco alla fine. Certo, ma è la verità, non è che lo faccio contento, è proprio la verità, basta. Certo, non sarà, non è ottimo, perché no. Per qual è l'ottimo? Qual è, scusi, cosa manca? Mi piace, se si potesse magari cambiare il fisico, cambiare così l'apparenza. Perché è brutto? Non le piace? No, brutto no, però non è certo il mio ideale. Quindi vede che già c'ha in mente un altro uomo lei. Io la vedo, la vedo già messo male questo signore, poveraccio. Si dovrà cominciare a segnare. Sì, se lei trova uno che le piace di più. Ma diciamo la verità, anche la carne vuole la sua parte. Non è adesso. No, la carne io lo so. No, la mia carne è tranquillamente. L'ha messa in freezer. In pensione. L'ha messa in freezer. Vabbè. Basta. Basta, sembra chissà che mi ha descritto due uomini in tutta la vita, basta. Sembra che no, le mille e una notte. Piccoletti. Marito, no, due mariti praticamente, figuriamoci. Benissimo, ma io ho fatto tutto quello che dovevo fare nella mia vita, tutto, tutto, non mi sono lasciata mancare niente. E quindi direi che sono paga di tutto. E quindi adesso ho soltanto da essere serena, tranquilla e vivere serenamente questi anni. Il maturo ballerino si farà una ragione che sta con una donna pagata, che però tutto sommato ne trovasse uno un po' più bello, se lo piglierebbe. Alla fine è questo. Vabbè, quello sai, anche l'occhio vorrebbe la sua parte, però insomma. Ma ce ne stanno di più appetibili lì nel giro del centro anziani? No. Quindi si è presa già al top, c'ha già al massimo. Non avrò trovato niente, quindi va bene così. Beh, si guarda intorno, esca fuori da quel, vada a vedere i circoli degli altri quartieri, magari trova qualcos'altro. Gianluca, ormai direi che non ho più voglia di neanche di mettermi in discussione, di mettermi. Vabbè, chi lascia la via vecchia per la nuova? Lei, tutto smatto, adesso c'ha un compagno tranquillo con cui balla, sereno, lo tiene anche lì sul filo della corda, quindi vabbè. Che cosa voglio di più? Niente, nulla. Lo sto cercando. Economicamente, per fortuna, per il momento non mi serve niente. Moralmente non ho. I figli stanno bene, quindi una vita di soddisfazione. Sto bene così. I miei 70 anni li vivo così, serenamente. Ma ogni tanto le appare il fantasma degli altri due, il marito e il secondo. Ma ho parecchio contatto con il primo, perché avendoci due figli. Ah, beh, già, il padre dei figli, è vero, sì. Sì, ci tengo sempre. Se l'è sposata lui poi quella lì, la donna che amava? Non credo, non lo sa adesso, non lo sa. No, non lo so. Io gliel'avevo chiesto, ma ha detto di no, però io non voglio. Qui poveraccio, è stato anche mollato dal grande amore, cioè ha perso la moglie e l'amante, pensa un po', poveraccio. No, ce l'ha ancora, vivono insieme, stanno benissimo. Ah, sta insieme? No? Ah, sta ancora. Beh, ci sta ancora. No, sposato nel senso ci sta ancora, quello volevo dire. Sì, ma sicuramente staranno bene. Io sono contenta. Sì, allora, era giusto, era veramente il suo amore quella donna lì. Era il suo amore. Se no uno non sta per tutti questi anni con una persona se è solo un'infatuazione. No. Si amavano proprio, è giusto che stiano assieme. Ma l'amore è una cosa che va sempre rispettata. Sì, l'unica cosa che dico, poteva dirmelo, che magari avremmo fatto delle scelte condivise. Vabbè, non è manco facile dirlo, perché uno pensa sempre adesso vediamo, ci sono i figli, aspettiamo. Ho capito. Uno non si, si pone mai il problema di dirlo. Ma il risultato è quello, però alla fine ti molla, è chiuso, ciao, io vado e ti arrangi. Cioè, invece magari condividendo insieme il momento si sarebbe. Forse lo dico così perché non è successo. Non lo so, sono cose difficili, bisogna starci dentro. Perché se in tre a ragionare in quella situazione, bisogna capire anche l'altra che diceva. Se l'altra gli stava bene anche all'altra, sta a far l'amante, averci dentro casa sai che noia, poi alla fine si doveva accollare, questo è il fatto. Vabbè, ho fatto il mio passo indietro. È stata una bella vita, è stato anche un bel viaggio, anche una bella chiacchierata. Ci vediamo la prossima volta. Spero ci saranno ancora delle novità, perché non mi accontento. Grazie. A presto. Grazie, a presto. Buongiorno. Here we are stuck by this river, you and I, underneath the sky that's ever falling down. Down, ever falling down. Through the day, as if on an ocean, waiting here, always failing to remember why we came. I wonder why we came. I reply with impressions chosen from another time, time, time, from another time. Si ricorda che è attivo il servizio di prenotazione via mail all'indirizzo il treno va @radio24.it.